le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il Papa nell'enciclica, salvando le banche si sono colpiti i popoli, Francesco contro il paradigma consumista e parla di decrescita, chiede istituzioni mondiali più forti. Roma ancora pressioni su Marino perché lasci, ma lui presenta il piano sul decoro urbano e dice resterò fino al 2023, serve un risveglio e una mobilitazione civica. I profughi sono 60 milioni nel mondo, quasi raddoppiati in 10 anni. In Europa fa discutere il muro minacciato dall'Ungheria. I vescovi francesi ci vergogniamo per il nostro paese. Strage in una chiesa di afroamericani in North Carolina. Ricercato un uomo di 21 anni, si tratterebbe di un attacco a sfondo razziale. La maturità per gli studenti del classico arriva alla versione più temuta, quella di Tacito. Per lo scientifico un problema con un piano tariffe di un operatore telefonico. Jobs Act, camuso all'attacco della modifica dell'articolo 4 sul controllo dei dipendenti, il grande fratello in azienda, reagiremo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il numero di sms 349-238-6666 e la pagina di Effetto Giorno sul sito www.radio24.it. È stata ufficialmente presentata, dunque, dopo l'indiscrezione e la bozza circolata nelle ore scorse, l'enciclica di Papa Francesco. La nostra inviata in Vaticano, Katia Caramelli. Katia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sì, è stata poco fa ufficialmente presentata ed è un testo di quasi 200 pagine, diviso poi in 6 capitoli. Un testo con il quale il Papa, proprio come fece il suo predecessore Roncalli con la Pace Minterris, vuole rivolgere un accorato appello a tutti, non soltanto quindi un messaggio per i cristiani e per i cattolici, ma per tutti gli uomini di buona volontà, perché scrive Francesco: la terra ormai sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. Quindi un appello universale è il suo, come ha ben spiegato il presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, il cardinale Turkson. L'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune si pone fin dall'inizio in dialogo con tutte le persone, le organizzazioni, le istituzioni che condividono questa stessa preoccupazione. Questo tipo di dialogo è stato presente anche nel metodo che il Santo Padre ha voluto per la redazione dell'enciclica, avvalendosi di un'ampia serie di contributi. Sì, e a proposito del metodo, Simone, è stato sottolineato come per la prima volta in assoluto il Papa nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, abbia voluto consultare i vescovi di tutto il mondo inviando loro una mail con dei passaggi, con i passaggi più significativi del documento, anche per avere dei loro pareri, oltre poi ad inviare 2 giorni fa il testo a tutti i vescovi accompagnato da una sua introduzione. Come dicevi nei titoli, Simone, nell'enciclica, per quello che abbiamo letto, sì, c'è un attacco al consumismo, un forte attacco al consumismo, perché Francesco scrive che il mercato crea un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti, ma questo non può essere il paradigma di vita dell'umanità, perché in effetti nel testo si mette in stretta correlazione la crisi ecologica con la crisi sociale, cioè si dice che la crisi ecologica alla fine ha penalizzato i paesi più poveri, quelli in via di sviluppo, e gli stessi migranti spesso abbandonano le loro terre proprio perché sono state impoverite dal punto di vista ambientale, quindi serve un approccio integrale per affrontare questa emergenza. Ti ringrazio, grazie a Katia Caramelli per questo aggiornamento e per questo racconto. Torneremo a collegarci con lei naturalmente nel corso della giornata e a sentire i suoi servizi dal Vaticano, e torneremo, se ci riusciremo, nel corso di Effetto Giorno a commentare soprattutto la parte economica di questa enciclica. Katia Caramelli, come avete sentito, citava anche il tema dell'immigrazione contenuto all'interno dell'enciclica. Ebbene, il tema dell'immigrazione resta al centro del dibattito politico italiano ed europeo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In Europa si continua a discutere di quote, di rimpatri, ma anche della decisione del premier ungherese di erigere un muro alto 4 metri lungo tutto il confine con la Serbia per impedire il passaggio dei migranti. E poco fa una dura presa di posizione di Natasha Bertò, portavoce del commissario UE per l'immigrazione Avramopoulos. In Europa sono stati recentemente abbattuti dei muri, non abbiamo bisogno di costruirne di nuovi. E intanto, a difesa dell'Italia e del premier Renzi, scende invece il Financial Times. E Renzi ha ragione quando pretende che l'Europa condivida il peso dei profughi, scrive l'autorevole quotidiano britannico, che bacchetta anche il governo del Regno Unito, invitandola a non tirarsi indietro e ad accettare una quota giusta di rifugiati. Una dichiarazione che arriva dopo l'incontro di ieri tra Renzi e Cameron, con quest'ultimo che aveva detto sì a risorse all'Italia, no a quote di rifugiati nel nostro territorio. Domenica invece Renzi avrà un bilaterale con Hollande, tutto questo in vista del Consiglio europeo del 25 e 26. Sul fronte interno invece polemiche per le parole di Salvini, che commentando l'invito del Papa di pregare per chi non accoglie i profughi ha detto: non mi risulta che ci siano rifugiati in Vaticano. Il Presidente del Senato Grasso invece le commenta così, sentiamo. Io sono col Papa, niente muri ma ponti, e sono per la solidarietà nei confronti degli immigrati, che devono essere considerate persone, non certamente bestie. E devo dire che il sogno di una Unione Europea unita e solidale, è nato su un'isola a Ventotene e rischia di morire sugli scogli di Ventimiglia. E intanto proprio a Ventimiglia, sesto giorno per i migranti sugli scogli, giorno tra l'altro di Ramadan, quindi né cibo né acqua fino al tramonto per chi è musulmano, e questo rende ancora più difficile la permanenza. In 120 sono stati trasferiti ieri sera dalla Francia all'Italia e sale la tensione tra la polizia italiana e francese. Secondo la prima, infatti, il governo di Parigi starebbe approfittando della situazione per espellere in Italia anche extracomunitari mai transitati nel nostro paese. Stanno ripulendo, la Francia, avrebbe detto un volontario della Croce Rossa. E questo è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Tra l'altro torneremo a parlare di questi temi con una storia che arriva da Milano, dove i sindacati dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, hanno chiesto maggiori verifiche soprattutto per il trasporto dei migranti per timori di malattie. Vedremo di capirne di più subito dopo il traffico. Le Nazioni Unite intanto diffondono i dati sul numero di profughi arrivati in Europa. Un essere umano su 122 è oggi una persona che ha dovuto abbandonare la propria casa. Il numero di rifugiati, richiedenti asilo, sfollati, interni, sfuggiti da guerre, conflitti e persecuzioni è ai massimi storici. Ha raggiunto i 59 milioni e mezzo di persone. Erano 37 milioni e mezzo 10 anni fa. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. La portavoce Carlotta Sami. Sono 60 milioni, mai un numero così alto. Equivale sostanzialmente alla popolazione dell'Italia. Se dovessimo costituire una nazione con tutti i rifugiati che ci sono nel mondo, sarebbe la 24esima nazione al mondo. Ma il senso di assedio che vive l'Europa è giustificato dalle cifre? In realtà l'86% dei rifugiati al mondo è ospitato nei paesi in via di sviluppo. Il Libano ha 6 milioni di abitanti e accoglie oltre 1,2 milioni di rifugiati. Nell'Unione Europea, che ha 500 milioni di abitanti, nel 2014 sono arrivate 278.000 persone. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica ci porta anche a parlare della situazione di Roma, dove oggi il sindaco Marino ha lanciato il piano per il decoro urbano, ma ha anche detto: rimango fino al 2023. Così Elisabetta Fiorito, no? Eh sì, sembra un po' una minaccia. Allora, intanto diciamo che tra Marino e Azzollini c'è l'impasse del governo, e come hai detto tu, il sindaco di Roma oggi rilancia e passa all'attacco dopo le critiche dei giorni scorsi e la richiesta da più parti di dimissioni. Marino dice di voler restare fino al 2023 e di voler spingere il tasto reset per la capitale, malgrado la protesta del nuovo centrodestra e la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. Ma a questo punto sentiamo proprio quanto ha detto Marino. Abbiamo interrotto tutto e adesso siamo nelle condizioni di riniziare, di pulire questa città non solo metaforicamente ma anche praticamente, attraverso percorsi trasparenti dove ogni singolo euro dei cittadini verrà utilizzato per il bene e per la qualità della vita dei cittadini, non per riempire le tasche dei cattivi politici, degli affaristi e dei criminali. Il COPASIR, l'organismo parlamentare di controllo sui servizi segreti, si occuperà anche di mafia capitale. Altro capitolo è invece quello del senatore Antonio Azzollini del Nuovo Centrodestra, su cui pende una richiesta di arresto da parte della procura di Trani. Oggi si riunisce la giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama, ma Azzollini si difende e dice: non ho mai preso mazzette e non ho mai detto frasi scurrili, soprattutto ad alcune suore, come rivelato da alcuni giornali. Tra un'ora invece ci sarà proprio la riunione della giunta. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e anche sulla vicenda di Azzollini vi aggiorneremo nel corso della giornata. Intanto c'è un'altra questione politica che in qualche misura arriva a compimento, perché oggi è il giorno dell'insediamento per Vincenzo De Luca. Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca, ex sindaco di Salerno, sarà proclamato presidente della Regione Campania dalla Corte d'Appello di Napoli. Da oggi partirà quindi anche il conto alla rovescia per l'applicazione della legge Severino, con cui ha già fatto i conti da primo cittadino a causa di una condanna in primo grado per abuso d'ufficio relativa alla nomina del project manager del termovalorizzatore di Salerno. La sua candidatura ha creato non poche critiche, ma è stata determinata dal risultato delle primarie, come ha fatto notare anche il premier Renzi. E sebbene il nome di Vincenzo De Luca figuri nella lista degli impresentabili stilata dalla commissione antimafia e resa nota a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, oggi la proclamazione avverrà, poiché De Luca ha vinto con oltre il 41% dei voti. La partita che riguarda la legge Severino, invece, dopo le tante interpretazioni, inizierà tra poco con tanto di battaglia legale. Il centrodestra ha già inviato una diffida per ottenere la sospensione immediata del neopresidente. Il tempo è la variabile determinante e tutto si gioca sulla possibilità per il neogovernatore di nominare la giunta e un vicepresidente che faccia le sue veci durante i 18 mesi di sospensione. Il procedimento prevede passaggi interistituzionali che renderebbero efficace il provvedimento del governo solo dopo l'insediamento del presidente, del consiglio regionale e della giunta. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Siamo alla maturità. Dopo la prova uguale per tutti di ieri, arriva quella per ogni singola scuola superiore. Dopo l'ordinarietà del tema, le sorprese della seconda prova. Se le tracce di ieri non hanno stupito più di tanto, lo stesso non si può dire degli scritti di oggi. A cominciare dal classico, dove è stato estratto La bestia nera Tacito, non accadeva dal 2005, con un pezzo degli Annales sulla morte dell'imperatore Tiberio. Novità anche al liceo scientifico, dove uno dei due problemi è stato orientato più alla risoluzione di problemi meno teorici. Nel primo problema, infatti, lo studio di funzioni viene introdotto mediante un quesito di carattere pratico. Date le tariffe di un operatore telefonico in roaming per le chiamate, bisogna individuare l'andamento della spesa telefonica in base ai minuti di chiamate effettuate. Tutta la prova poi si sviluppa seguendo questa analogia. Nella seconda traccia, invece, tornano equazioni differenziali e geometria. Nei nuovi licei coreutici e musicali, introdotti dalla riforma Gelmini nel 2010 e per la prima volta alla prova maturità, le prove sono tecniche della danza e teoria, analisi e composizione. Economia aziendale negli istituti tecnici ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing. La seconda prova degli alberghieri, cultura dell'alimentazione. Al liceo linguistico, la traccia del tema in inglese parte da un articolo del Guardian sulla povertà alimentare. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E caccia all'uomo in South Carolina dopo la sparatoria di ieri in una chiesa a Charleston. 9 le vittime. Useremo tutte le risorse in nostro possesso per trovare chi ha commesso questo crimine. Un crimine d'odio razziale, secondo Greg Mullen, capo della polizia di Charleston, la città costiera del South Carolina, dove ieri sera un uomo bianco di circa 20 anni è entrato in una chiesa frequentata dalla comunità afroamericana e ha sparato all'impazzata, uccidendo 9 fedeli. Una tragedia incomprensibile, ha detto il sindaco Joe Riley, precisando che 8 persone sono morte sul colpo, mentre una nona è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. La chiesa episcopale metodista African Emmanuel è una delle più antiche del sud degli Stati Uniti e riunisce una delle più vaste congregazioni di afroamericani nella regione. Charleston era stata già teatro di tensioni razziali dopo che l'8 aprile scorso un poliziotto bianco aveva sparato a un nero disarmato che fuggiva, uccidendolo. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo sulla cronaca italiana adesso. Domenico Mauro Antonio, lo studente padovano morto a Milano lo scorso 10 maggio, vicenda della quale spesso ci siamo occupati, come sapete, dopo essere volato dal quinto piano dell'hotel dove era in gita con la classe, sarebbe stato da solo quando è precipitato dalla finestra. L'ipotesi di inquirente e investigatore allo stato attuale delle indagini, che escluderebbero la presenza di altre persone. Queste indiscrezioni che arrivano dalla procura, citate dall'agenzia ANSA. Intanto ci sono novità sull'inchiesta che riguarda la morte di un altro ragazzo ucciso in provincia di Nuoro da due colpi di fucile mentre aspettava l'autobus. Sarebbero ad una svolta le indagini sull'omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a fucilate ad Orune nel Nuorese mentre aspettava l'autobus per andare a scuola la mattina dell'8 maggio scorso. Secondo il quotidiano L'Unione Sarda sono indagati due giovani, uno dei quali minorenne. Si tratta di un 17enne di Nule, di un suo cugino 24enne che vive in una casa rurale nelle campagne di Ozeri. Su richiesta della Procura della Repubblica di Nuoro e di quella dei minori di Sassari sono state perquisite ieri dai carabinieri le case di entrambi i sospettati, già nel mirino degli investigatori fin dall'inizio delle indagini. Sequestrato un computer ed altro materiale informatico che potrebbe essere di interesse rilevante per gli inquirenti, ma nulla trapela su questo per il momento. Resta ancora un giallo invece la sorte di Stefano Masala, il giovane sparito la sera prima del delitto di Gianluca Monni, la cui scomparsa sarebbe legata proprio all'esecuzione di quest'ultimo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo tra poco. Parleremo della visita di Michelle Obama, la First Lady americana, ad Expo. Parleremo di nuovo dell'enciclica del Papa e parleremo con un economista proprio per commentarla. E poi ci occuperemo ancora di immigrazione, come si diceva poco fa, sentendo uno dei sindacati dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, che protestano perché dicono attenzione, ci sono rischi dal trasporto dei profughi all'interno della città. Intanto il traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Il Papa nell'enciclica Salvando le banche si sono colpiti i popoli, Francesco contro il paradigma consumista e parzialmente a favore della decrescita. Roma ancora pressione su Marino perché lasci, ma lui presenta il piano sul decoro urbano e dice resterò fino al 2023. I profughi sono 60 milioni nel mondo, quasi raddoppiati in 10 anni, dicono le Nazioni Unite. Strage in una chiesa di afroamericani in North Carolina, ha ricercato un uomo di 21 anni, si tratterebbe di un attacco a sfondo razziale. Andiamo ad Expo adesso, però, dove c'è Michelle Obama in visita questa mattina. Facciamoci raccontare com'è andata dalla nostra inviata Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. La visita di Michelle si è conclusa da poco. A questo punto la First Lady è in viaggio, a quanto ne sappiamo, per Vicenza e poi infine Venezia per la visita alla Biennale. Ma com'è andata questa mattina? C'è stata un po' di delusione da parte dei tanti che l'hanno aspettata, perché Michelle è partita passando molto lontano dalla folla, sia all'arrivo anzi che alla partenza. Comunque si è intrattenuta davvero a lungo a Expo. È stata al Padiglione Italia dove l'aspettava Agnese Renzi, ha incontrato gli alunni della Scuola Internazionale di Milano, poi ha visitato i padiglioni del Nepal, della Corea del Sud, del Brasile e infine ovviamente quello degli Stati Uniti. Una visita di mezza giornata per la quale il commissario Sala l'ha nominata, diciamo così, regina di Expo. E poi ha aggiunto che sono già 700.000 i biglietti venduti negli Stati Uniti e Michelle si è augurata a questo punto che davvero tanti americani visitino questa esposizione, perché i problemi alimentari sono seri ma possono essere risolti, dice. Le soluzioni sono a portata di mano, ma c'è ancora molto da fare. Hai curiosità sull'abito, sulle bambine oppure? Beh, a questo punto Laura, già che ci siamo diamole. L'abito multicolor, simile, ieri era una gonna scampanata, oggi era un vestito, ma comunque sempre diciamo più o meno le stesse linee con davvero molti colori. Le figlie invece molto più sportive hanno girato per l'Expo da sole, separandosi dalla madre, avevano il loro tour e hanno seguito quello, devo dire molto molto molto americane, molto molto ragazze che visitavano un'esposizione, ecco, direi in questo senso questa era la parte più normale della visita. Il resto invece è stato molto istituzionale e anche molto blindato. Grazie a Laura Bettini in diretta da Expo per il racconto della visita di Michelle Obama Obama, e noi adesso torniamo all'enciclica del Papa. Saluto Giuseppe Di Taranto, che è docente di storia dell'economia e della finanza, da Luis Guido Carli di Roma. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Perché abbiamo voluto un economista? Perché la parte che ci ha colpito di più, almeno di quella diffusa in questi minuti dalle agenzie, non è tanto la parte dedicata all'ambiente, della quale conoscevamo molto anche per le bozze che sono circolate, ma proprio la parte economica dell'enciclica, la parte nella quale il Papa dice che salvando le banche si sono colpiti i popoli, e dice sostanzialmente che c'è bisogno in alcune parti del mondo di decrescita. Che cosa ci dice, professore? Che ne pensa? Che condivido pienamente questa enciclica, che mi pare tra l'altro sia sulla linea già del precedente documento di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, e ancora di più se ricordiamo, andiamo un po' più indietro, della Populorum Progresso, proprio sui problemi nel 1967 del sottosviluppo. Mi faccio fare soltanto una considerazione. La crisi è cominciata perché? È perché le banche hanno, ahimè, venduto troppi mutui subprime. E così è cominciata questa crisi. E oggi l'Unione Europea perché è in crisi? È in crisi perché la BCE non a caso deve ricorrere sempre a misure borderline per finanziare le banche. E poi le banche dovrebbero a loro volta finanziare famiglie e imprese. Quindi non posso che condividere pienamente questa enciclica. Ma anche, professore, anche sul fronte della decrescita? Ma guardi, sul fronte della decrescita io comprendo che questo è un concetto tipico del cattolicesimo sociale. Il cattolicesimo sociale sin dalla Rerum Novarum del 1893 ha sempre sostituito all'individualismo il solidarismo. Quindi è in quest'ottica, a mio avviso, che bisogna vedere i problemi della decrescita anche come un'apertura verso la povertà e l'aiuto dei popoli. Non dimentichiamo ciò che ha dichiarato proprio qualche giorno fa. Quindi mi scusi professore, la legge è più come una sorta di invito alla sobrietà piuttosto che come un'aderenza alle tesi della cosiddetta decrescita felice? Sicuramente, anche perché io non condivido, glielo dico molto sinceramente, la tesi della decrescita felice, però bisogna comprendere l'ottica nella quale va inquadrato questo concetto oggi nell'ambito del cattolicesimo sociale. La ringrazio, grazie a Giuseppe Di Taranto, che è docente di storia dell'economia e della finanza, da Luis Guido Carli di Roma, per questa analisi e per la sua chiarezza. Sicuramente su queste parole del Papa comunque vedrete che si aprirà un dibattito, abbiamo sentito una voce, magari nei prossimi giorni ne sentiremo alcune altre. Ha parlato il professor Di Taranto della Grecia, ebbene, le cronache di oggi. Se c'è la volontà c'è una strada, dunque l'accordo è ancora possibile. La cancelliera lo ripete, poi aggiunge: la Grecia ha sempre rimandato alcune importanti riforme, riforme necessarie per ottenere gli aiuti e necessarie affinché gli aiuti abbiano un effetto. Ma al tavolo delle trattative nessuno vuole cedere e dunque oggi non ci sarà nessun accordo. I colleghi ascolteranno Varoufakis e poi passeranno ad analizzare la crescita europea, che però è indebolita dalla crisi greca. A ricordarlo, la BCE che ieri ha aumentato i fondi alle banche elleniche. Una mossa non apprezzata dal presidente della Bundesbank. Non è compito dell'Eurotower finanziare gli stati. Tocca alla politica decidere se aiutare Atene, afferma Weidmann. Proprio quello che ripete Tsipras da settimane, che in un lungo articolo pubblicato sul quotidiano tedesco Der Tagesspiegel scrive: non è vero che i tedeschi stanno pagando le pensioni dei greci e non è vero che i greci vanno in pensione troppo presto. 67 anni secondo la legge. La spesa pensionistica è aumentata, ma solo perché il PIL è sceso. L'aggiustamento compiuto dalla Grecia negli ultimi 5 anni è impressionante, dichiara il responsabile pianificazione di Banca Italia. Forse il problema è che gli economisti dell'FMI hanno peccato in eccesso di ottimismo. Ultime notazioni. Oggi Tsipras incontra Putin, mentre sulle isole greche continuano ad arrivare migranti e per la loro accoglienza non ci sono fondi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulla maturità, perché ve ne abbiamo già parlato nella prima parte, di quali erano le tracce. Iniziamo ad analizzarle così come abbiamo fatto ieri con la prima prova. Iniziamo dal liceo classico. È stato estratto un brano degli Annales di Tacito che non veniva proposto ai maturandi dal 2005. Michele Nardini ha parlato col professor Antonio Marchetta, ordinario di Lingua e Letteratura Latina all'Università Sapienza di Roma. Il brano è naturalmente una delle pagine più suggestive e più tipiche di Tacito. Si ribadisce la caratteristica fondamentale di Tiberio, come Tacito ce l'ha dipinto per tutti i libri precedenti, cioè la doppiezza di Tiberio, che dava a vedere e esprimeva di solito il contrario di quello che pensava. Per quanto riguarda la lingua, e anche qui è il Tacito più tipico, ci sono dei punti che non sono facili, indubbiamente, soprattutto l'attacco è improntato a una stringatezza tipica proprio della brevitas tacitiana, che non è facile sciogliere, ecco. Abbiamo raccolto un commento anche per quanto riguarda la traccia proposta, il problema proposto allo scientifico, ma adesso ci dobbiamo fermare, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi lo ascoltiamo subito dopo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Una notizia appena battuta dalle agenzie di calcio: la Sampdoria parteciperà all'Europa League. La UEFA ha accolto la memoria difensiva presentata dal club blu cerchiato, confermata l'iscrizione della Samp al posto del Genoa, che non ha ottenuto la licenza UEFA. Le altre notizie sicuramente più importanti, a partire dall'enciclica del Papa, che dice: salvando le banche si sono colpiti i popoli, si scaglia contro il paradigma consumista e a favore della decrescita. Ci sono ancora pressioni sul sindaco di Roma Marino perché lasci, ma lui ha presentato il piano sul decoro urbano e ha detto: resterò fino al 2023. I profughi sono 60 milioni nel mondo, quasi raddoppiati in 10 anni. In Europa fa discutere il muro minacciato dall'Ungheria. Domenico Mauro Antonio, lo studente padovano morto a Milano lo scorso 10 maggio, cadendo dal quinto piano dell'hotel dov'era in gita, sarebbe stato solo quando è precipitato dalla finestra, emerge da indiscrezioni della procura. La borsa. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prima di andare a parlare del problema arrivato per il liceo scientifico, quindi della seconda prova della maturità, una breve risposta ad un ascoltatore, Massimo, che ci scrive da Roma, e parlavamo di quello che succede a Roma con il sindaco Marino. Dice: l'atteggiamento di Marino rivela o ingenuità oppure la completa certezza di non poter essere coinvolto in alcuna inchiesta giudiziaria. Massimo, il punto ormai non è più nemmeno quello, ma come avrà notato dalle dichiarazioni del segretario del Partito Democratico, è un punto essenzialmente politico. Evidentemente Renzi non è soddisfatto di come Marino sta lavorando. La maturità scientifica, si diceva, vi avevamo lasciato in sospeso, e ve ne chiediamo scusa. Per il liceo scientifico, seconda prova orientata al problem solving. Nella prima traccia il quesito sulle funzioni si basa su un'analogia con l'andamento della spesa di un operatore telefonico. Carlo Mazza è professore e ricercatore di algebra dell'Università Statale di Milano, ne ha parlato con Michele Nardi. Tra i due esercizi, il primo esercizio, sebbene sia meno teorico, è sicuramente quello che mi sembra più interessante, soprattutto anche per gli studenti, perché contribuisce un po' a sorpassare o almeno a superare, diciamo, questa visione della matematica che si ha nel liceo, che è questa versione molto meccanicistica, quasi spesso anche solo nozionistica, e mentre con questo tipo di problemi è importante far capire che la matematica non è soltanto una serie di formule da imparare a memoria, ma è anche la capacità essenzialmente di risolvere i problemi con gli strumenti matematici che abbiamo a nostra disposizione. Nelle parti, diciamo, più standard, sono molto standard, nel senso si ritrovano molto, molto simili a cose che sono fatte negli anni scorsi, e dando un occhio sono cose tutte sicuramente fattibili, soprattutto avendo 6 ore a disposizione, nel senso c'è il tempo per pensare con tranquillità. Cambiamo decisamente argomento. Claudio Zambelli fa parte del coordinamento delle rappresentanze sindacali Unitalia in ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi. Buongiorno Zambelli, benvenuto. Buongiorno a tutti. Che cosa è successo? Abbiamo visto i giornali che titolano con cose del tipo, insomma, c'è il rischio di malattie, non vogliamo trasportare i profughi. Ma guardi, noi non abbiamo scritto questo, noi abbiamo, su sollecitazione dei lavoratori che sono stati chiamati a effettuare questo servizio, abbiamo inviato una lettera all'azienda in quanto non eravamo stati informati di questo incarico. Ripeto, noi abbiamo solamente svolto il nostro lavoro, che è quello di dare delle risposte ai lavoratori che si chiedevano se questo servizio sarebbe stato fatto in tutta sicurezza. Per quanto riguarda igiene, chiaramente non sta a noi dire se questo è stato fatto, noi abbiamo solamente posto il problema perché è richiesto dai lavoratori, insomma. Avete ricevuto risposta oppure no? Ma guardi, ci ha dato una risposta all'azienda, che conseguentemente alla lettera, dove dice che questo servizio, poi queste vetture sono state igienizzate. Noi abbiamo avuto invece delle segnalazioni da parte dei lavoratori che alcune di queste vetture utilizzate non sono state fermate per le norme come consuetudine in queste situazioni, ma sono state impiegate subito dopo come collegamento su altre linee. Quindi questo è il problema. Effettivamente, se noi saremmo stati interpellati per tempo, forse saremmo anche stati in grado di gestire la cosa in maniera diversa. E adesso che succede? No, adesso che succede? Il lavoro, chiaramente, questo servizio, se verrà richiesto, verrà effettuato. Noi abbiamo solamente chiesto all'azienda di essere più attenta e di espletare tutte le norme e le procedure che vanno fatte in questi casi. E parlo sempre di igiene e di sicurezza. Chiaramente, diciamo che i lavoratori, la preoccupazione è quella, hanno anche loro delle famiglie, quindi è normale credo farsi delle domande, tutto qua. La ringrazio, grazie Claudio Zambelli, che fa parte del coordinamento le rappresentanze sindacali in ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Una breve risposta ad un altro ascoltatore che ci dice: non parlate mai degli istituti tecnici e professionali, perché in realtà lo abbiamo fatto nel nostro servizio in apertura. Non siamo riusciti per il momento a raggiungere nessuno che potesse commentare le tracce, i problemi arrivati per gli istituti tecnici e professionali, ma insomma sicuramente lo faremo nell'arco della giornata. Non vi preoccupate, intanto ci fermiamo e andiamo a sentire cosa succede sulle strade.